sentimenti miei sono come i tuoi. Quanto ci amiamo noi lo sappiamo noi. Il nostro sarà un matrimonio d'amore, un matrimonio soltanto d'amore, anche se pochi credono a noi due. Sarà una vacanza che dura una vita, non una cosa di breve durata, se lo vogliamo noi. Un'altra cosa li cambierei. Il nostro sarà un matrimonio d'amore, un matrimonio soltanto d'amore, se lo vogliamo noi. Vivo solo quando sto.